giorno. Le notizie in 60 minuti. Buona giornata alle 13 a Radio 24, una buona giornata da Enrico Pagliarini dalla redazione di Radio 24. Questi titoli, le notizie principali della giornata. L'Unione Europea chiede spiegazioni all'Italia sulla legge di stabilità. Risposte entro domani. Passi avanti intanto per sbloccare il nodo regioni. Sullo sblocca Italia il governo pone la fiducia. L'attacco al Parlamento canadese, oggi i deputati tornano al lavoro, l'uomo che ha agito era già sospettato di terrorismo. Ancora vento e piogge, soprattutto nel centro-sud Italia, è morta una donna a Catania. Ebbene, come avete sentito, l'Unione Europea ha chiesto spiegazioni all'Italia, ha inviato al governo italiano una serie di domande e chiarimenti sulle misure previste nella legge di stabilità. Tutto ciò a poche ore dall'inizio di un importante Consiglio europeo a Bruxelles, dove c'è il nostro inviato Sergio Nava. Buongiorno Sergio, allora partiamo da questa lettera con queste richieste al governo italiano. Sì, buongiorno. È dunque arrivata la lettera di richiesta di informazioni sulla legge di stabilità da parte della Commissione europea. Dall'analisi preliminare sulla base dei conti degli uffici tecnici della Commissione, l'Italia programma una significativa deviazione degli aggiustamenti richiesti per centrare l'obiettivo di medio termine, vale a dire il pareggio strutturale nel 2015, rileva Bruxelles. Due in particolare i punti che il commissario agli affari economici Jyrki Katainen chiede di spiegare: perché l'Italia programma di non rispettare il patto di stabilità nel 2015 e come assicurerà un pieno rispetto degli obblighi della politica di bilancio il prossimo anno. La risposta dovrà essere e sarà rapidissima, vale a dire entro domani, per permettere alla Commissione di prendere una decisione già mercoledì, se accettare cioè le spiegazioni italiane o bocciare la manovra e chiedere dunque correzioni, opzione ovviamente quest'ultima più pesante. Allora, ai nostri microfoni il commissario europeo all'industria Ferdinando Nelli Feroci conferma che il problema per l'Italia riguarda soprattutto il deficit strutturale. Sentiamo Nelli Feroci. Sono lettere che sono formulate come richieste di chiarimenti, non sono lettere che ci fanno richieste particolari in termini di aggiustamenti, di modifiche. È parte questa lettera di una interlocuzione in corso tra Commissione e governi degli Stati membri, quindi non c'è niente di drammatico. È uno step di un processo che è in corso e che proseguirà fino a mercoledì della settimana prossima. Se capisco bene, il problema principale è quello del deficit strutturale per l'Italia. Il problema su cui si sta concentrando l'attenzione della Commissione è la misura della riduzione del cosiddetto deficit strutturale. Come noto, l'Italia non ha un problema di sforamento del deficit non strutturale, diciamo, quello famoso del 3%, noi siamo tranquillamente sotto quel target. Abbiamo però un problema di riduzione del deficit strutturale che è particolarmente importante nel caso dell'Italia, perché deve essere in qualche modo coerente con l'impegno alla riduzione del debito. È per questo che ci viene chiesto un sacrificio ulteriore rispetto a quello che può essere chiesto ad altri stati. Questo è il risultato del fatto che abbiamo un debito molto alto. Bene, questa era la voce del commissario Nelli Feroci al microfono di Sergio Nava. Dunque Sergio, oggi a Bruxelles, dicevo, si apre un importante Consiglio europeo. Il centro dei lavori è un tema che riguarda, che noi diciamo vediamo nella vita di tutti i giorni, perché riguarda di fatto il cambiamento climatico, obiettivi dell'Unione Europea. Allora, dici qualche cosa di più. Sì, diciamo, allora c'è la proposta della Commissione europea, il famoso pacchetto energia-clima, l'obiettivo è arrivare a un 40% di riduzione delle emissioni rispetto al 1990, a un 27% di produzione di energia attraverso rinnovabili e a un 30% di efficienza energetica. Questa è la proposta di base. C'è un problema però di divisione tra paesi dell'Ovest e paesi dell'Est, che hanno una struttura industriale molto più antiquata, più basata sul carbone, e che quindi non sono molto d'accordo sulla proposta. Quindi bisognerà cercare di trovare una mediazione per poi andare alla conferenza di Parigi del 2015 con una proposta unitaria. In serata si parlerà però anche di crisi internazionali, Ebola, Ucraina e terrorismo, e poi domani si parlerà di economia. Sergio, grazie e buon lavoro. Naturalmente ti risentiremo nelle prossime edizioni di GR24. Adesso facciamo il punto con Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Alla fine l'atteggiamento dell'Europa verso la manovra economica italiana sarà dettato dalla politica più che dai numeri. Stando alle regole in senso stretto, ci sarebbe motivo di reprimende e forse bocciature senza appello. Ma se interviene l'opportunità politica, si può immaginare un richiamo più soft, al quale il governo Renzi è già pronto a rispondere. Del resto, la Francia ha più problemi di noi in questo momento, anche se è giusto ricordarlo, Parigi non ha, nemmeno alla lontana, il debito pubblico italiano e quindi è assai più credibile, e non solo per l'antico rapporto privilegiato con la Germania, che pure conta. Insomma, il sentiero è stretto, ma si può tentare la sorte. Renzi punta molto sulla nuova commissione presieduta da Juncker, al punto da salutarlo con enfasi come l'autore della grande svolta europea che sarebbe merito dell'Italia. Forse è meglio non esagerare. Aspettiamo prima almeno che saltino fuori sul serio i 300 miliardi promessi dal successore di Barroso, e senza dimenticare che dietro di lui c'è sempre la Merkel, nel bene e nel male. A questa lettera, a questo messaggio che è stato inviato da Bruxelles a Roma, il governo italiano risponderà entro domani, ma c'è sempre il nodo regioni del quale si è parlato questa mattina. Allora, in diretta da Roma facciamo il punto con Alessandra Schepisi. Buongiorno Alessandra. Sì, buongiorno Enrico, e così il governo risponderà entro domani ai rilievi di Bruxelles sulla legge di stabilità, così come richiesto dalla stessa commissione. A renderlo noto il Ministero dell'Economia, che sul suo sito pubblica la lettera dell'Unione Europea in omaggio a quello che viene definito un dialogo trasparente, una lettera che comunque non sembra aver colto di sorpresa il governo, almeno a giudicare dalle prime reazioni. È una cosa normale, commenta il sottosegretario per gli affari europei Sandro Gozi. Abbiamo una manovra da 36 miliardi e il dover dare una risposta era già preventivato, spiega il ministro per gli affari regionali Lanzetta, aggiungendo che la manovra è comunque studiata e corretta. Governo che, come anticipavi tu, è intanto alle prese con il tema dei 4 miliardi di tagli alle regioni. Questa mattina a Palazzo Chigi si è tenuto un vertice. Dopo lo scontro dei giorni scorsi, il clima sembra essersi rasserenato con una linea più conciliante da parte dell'esecutivo, il quale ha assicurato di non voler tagliare servizi sociali né aumentare le tasse locali. Riduciamo gli sprechi, non i servizi, ha detto Renzi, appoggiando la proposta delle regioni di lavorare sui costi standard. Ma sentiamo allora il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Del Rio. Con il principio della massima collaborazione per cambiare la nostra Repubblica, col principio della massima autonomia, siamo disponibili, abbiamo dato disponibilità a lavorare insieme alle regioni nei prossimi giorni, in tempi strettissimi, per trovare potenziali soluzioni che possono permettere di applicare le riforme e riuscire finalmente a portare questo Paese fuori dalla palude in cui si è cacciato anche nella erogazione dei servizi della pubblica amministrazione. Positivi commenti delle regioni. Con questo incontro si apre una fase nuova, ha detto il presidente della conferenza delle regioni Chiamparino. L'incontro, devo dire, è stato simpatico nei toni. Ci diamo una settimana, 10 giorni, non di più, per un lavoro congiunto che abbia l'obiettivo molto semplice di rendere sostenibile la manovra per il governo, per le regioni, in termini di quantità e qualità di servizi erogati e anche di livelli di fiscalità. E intanto sulla legge di stabilità è arrivata la bollinatura della Ragioneria Generale, il visto che certifica la quadratura di bilancio tra nuove entrate e nuove uscite. Il testo è ora all'esame del Quirinale. Da Roma è tutto. Bene, grazie Alessandra. Adesso noi parliamo del Consiglio dei Ministri, perché dopo questo vertice, questo incontro con le regioni, c'è stato anche il Consiglio dei Ministri. Partiamo da qui con Elisabetta Fiorito in diretta dalla Camera. Ciao Elisabetta. Sì Enrico, allora un Consiglio dei Ministri lampo per deliberare lo stato d'emergenza per Gargano e Toscana, i primi stanziamenti per le zone colpite da eventi meteorologici importanti. In particolare è chiesto al Ministro dell'Economia il differimento al 20 dicembre dei termini di versamento dei tributi. Ma poi ci sono altri fronti politici per il governo, ancora stallo per le nomine della Consulta dopo l'offerta del Premier Matteo Renzi al Movimento 5 Stelle di fare due nomi per la Corte Costituzionale. Interviene il capo dello Stato Giorgio Napolitano, per il quale l'impasse in Parlamento conferma la negatività in politica e ricorda che il suo esempio è stato dovuto e severo. Attacca poi Ivan Scalfarotto del PD, chiede che il Movimento 5 Stelle lasci l'Aventino e faccia proposte. Altra partita è quella della legge elettorale. Dopo il freno di Silvio Berlusconi sulle modifiche all'Italicum, Renzi pensa di aprire una sponda con i grillini, mentre incassa l'ok al premio di lista dalla minoranza PD, perché Vannino Chiti dice di non avere pregiudiziali negative su questo punto. A te Enrico. Grazie ad Elisabetta Fiorito, adesso parliamo dello sblocca Italia, anche di questo si sta discutendo nelle ultime settimane. Il governo questa mattina ha posto la fiducia sul provvedimento. Tra polemiche e intoppi alla Camera, il governo chiede la fiducia anche sul decreto sblocca Italia, una mossa attesa dopo le difficoltà incontrate dal provvedimento nel suo iter a Montecitorio. Nella notte la Commissione bilancio ha bocciato una serie di modifiche introdotte dalla Commissione ambiente perché prive delle necessarie coperture. Tra queste c'è il raddoppio del fondo per le emergenze da 50 a 100 milioni di euro che era stato chiesto dopo l'alluvione di Genova, ma a saltare sono anche la riduzione dell'IVA al 4% per le ristrutturazioni edilizie e la cancellazione dell'obbligo per chi acquista una nuova casa di affittarla per 8 anni a canone concordato per poter usufruire dello sconto IRPEF del 20%. La decisione di chiedere la fiducia è stata contestata dalle opposizioni che attaccano governo e maggioranza sia per il mancato rispetto del Parlamento sia per il caotico andamento dei lavori. Il voto è previsto per domattina, lo sblocca Italia dovrà poi passare all'esame del Senato ed essere convertito in legge entro l'11 novembre. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo del maltempo soprattutto al centro-sud Italia, perché al nord sostanzialmente c'è freddo, ma sono delle giornate limpide con un bel cielo terso. Oggi purtroppo da registrare una vittima per il maltempo, questa volta la causa è il vento, una donna è morta travolta da una palma sradicata dal forte vento in piazza Cutelli nel centro di Catania. La vittima, moglie di un sottufficiale della Guardia di Finanza, era seduta su una panchina con la figlia ed è deceduta sul colpo. E come dicevo, nelle regioni del sud rimangono forti sia il vento che le piogge, sulle montagne dell'Abruzzo è arrivata anche la neve, per il fine settimana è previsto tuttavia un miglioramento in tutta Italia, come spiega Daniele Izzo del centro Epson Meteo al microfono di Federico Fumagalli. Per il nord poco cambierà, ancora giornate per lo più belle, soleggiate, anche al centro-sud però la situazione tenderà a migliorare, l'area di maltempo si sposta verso i Balcani, quindi si sposteranno le piogge, si sposteranno le nevicate, anche il vento si attenuerà e questo vuol dire che anche le temperature guadagneranno qualche grado. È previsto per oggi l'approdo a Messina della nave San Giorgio della Marina Militare con a bordo 253 immigrati. La nave Orione, sempre della Marina, è arrivata invece ieri sera nel porto di Catania e ha sbarcato 268 immigrati raccolti nei giorni scorsi nel canale di Sicilia. Problemi per l'immigrazione anche in Francia. Il ministro dell'interno francese Cazeneuve ha annunciato l'invio di nuovi rinforzi a Calais, il porto sulla Manica dove gli immigrati si accalcano sperando di riuscire a imbarcarsi per raggiungere l'Inghilterra. La situazione diventa sempre più tesa, i 350 agenti già in servizio si aggiungono dunque altri 100 poliziotti. Lunedì, lo ricordiamo, un gruppo di circa 400 immigrati, per lo più originari dell'Etiopia e dell'Eritrea, ma anche di Siria, Afghanistan e Iraq, hanno preso d'assalto i tir fermi ai posti di controllo in attesa di imbarcare. Alcune risse sono scoppiate negli ultimi giorni tra campi di migranti di diverse nazionalità e le forze dell'ordine sono dovute intervenire con i lanci di lacrimogeni. Insomma, la situazione è piuttosto tesa. Altra situazione di tensione in Roma, di tutt'altro genere, si registra in provincia di Ferrara, dove un picchetto di operai di una cooperativa a cui è stato tolto l'appalto controlla l'ingresso ai locali di un'azienda che produce ceramiche, impedendo ai dipendenti di uscire dallo stabilimento, in particolare in questo servizio. Sono 12 gli impiegati bloccati insieme ad un socio dell'azienda Mirror all'interno di uno stabilimento a Sant'Agostino, in provincia di Ferrara. Un presidio dei facchini della cooperativa a cui è stato rescisso il contratto di lavoro impedisce l'ingresso dei dipendenti e l'uscita degli impiegati impegnati nel turno di notte. La vicenda nasce dal fatto che la Mirror aveva disdetto a settembre l'appalto dei lavori di facchinaggio con la cooperativa per inadempienze documentate e si era rivolta ad un'altra società. L'azienda produttrice di ceramiche si era impegnata, secondo un accordo mediato dal sindaco di Sant'Agostino, ad inserire entro il 30 settembre 3 dei 13 lavoratori della cooperativa sostituita, mentre 10 sarebbero stati distribuiti in altre aziende del territorio. Nei giorni scorsi, però, i lavoratori, sostenuti dal sindacato Sicobas, avevano ripreso i picchetti. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Due brevi notizie dall'Italia prima della viabilità. Una banda di 7 persone responsabile di aver assaltato vari bancomat nel nord Italia è stata sgominata dai carabinieri di Brescia. I 7 che sono finiti in carcere sono responsabili anche di furti in abitazione, ricettazione, danneggiamento, nonché illecita fabbricazione e trasporto di materiale esplosivo che veniva utilizzato per far saltare i bancomat. Il gruppo agiva da Brescia in tutto il nord Italia. Un villaggio turistico, 7 aziende, 40 fabbricati, 8 terreni e anche quote sociali e pensate 20 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Cagliari nell'ambito di un'ampia indagine sul riciclaggio, coinvolti imprenditori e professionisti legati al clan camorristico dei Casalesi e D'Alessandro. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Queste le notizie principali. L'Unione Europea chiede spiegazioni all'Italia sulla legge di stabilità. Risposte entro domani. Passi avanti per sbloccare il nodo regioni. Intanto sullo sblocca Italia il governo ha posto la questione di fiducia. L'attacco al Parlamento canadese. Oggi i deputati torneranno al lavoro. L'uomo che ha agito era già sospettato di terrorismo. Ancora vento e piogge al centro-sud. A Catania è morta una donna travolta da una palma sradicata dal vento. Riprendiamo dal Canada, il Parlamento canadese tornerà a riunirsi oggi come previsto dopo l'attacco armato di ieri a Ottawa, lo ha annunciato il ministro dell'Industria. Sentiamo i particolari in questo servizio. Era nella lista delle autorità canadesi dei sospettati di terrorismo il 32enne convertito all'Islam con precedenti penali che ieri ha realizzato l'assalto al Parlamento di Ottawa ed è poi rimasto ucciso. A luglio i servizi segreti gli avevano ritirato il passaporto perché considerato elemento pericoloso, pronto ad unirsi alle formazioni armate in Iraq e Siria. L'attacco in cui è rimasto ucciso anche un soldato, il secondo questa settimana nei confronti di personale militare canadese, è avvenuto proprio mentre gli aerei canadesi si preparano ad unirsi alla campagna di bombardamenti sui militanti jihadisti in Iraq, guidata dagli Stati Uniti. Ancora tuttavia non sono stati chiariti i motivi del gesto, se si trattasse, come si dice in gergo, di un lupo solitario o se l'attentato fosse stato pianificato da un comando filo jihadista. Un amico racconta però che l'uomo a volte si comportava in modo strano, avvalorando in parte la tesi della malattia mentale. Non ci faremo intimorire, ha intanto promesso il premier Harper. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Almeno 60 ragazze sarebbero state rapite in Nigeria, nel nord-est del paese, dal gruppo islamico jihadista Boko Haram. Abitanti di Ouaga, riferisce l'agenzia missionaria MISNA questa mattina, hanno detto che un centinaio di Boko Haram fortemente armati sono entrati nel villaggio e hanno cominciato a sparare, poi hanno bruciato case e negozi. Hanno ucciso due uomini e portato via le ragazze. Questo ulteriore rapimento, sottolinea l'agenzia MISNA, mette in dubbio le trattative tra il governo di Abuja e i ribelli per il rilascio delle 200 ragazze che, ricorderete, sono state rapite nello scorso aprile. La Reynolds, la società che produce le sigarette Camel e numero 2 del tabacco in America, ha annunciato ai propri dipendenti che a partire dall'inizio del prossimo anno sarà vietato fumare negli uffici e in tutte le fabbriche. La percentuale dei 5.200 dipendenti della Reynolds che fuma è in linea con il tasso medio degli Stati Uniti, pari a circa il 18%. Sono le 13.20, adesso cambiamo argomento, ci spostiamo a Torino. Questa mattina si è aperta una manifestazione tra le più importanti in Italia per quanto riguarda la gastronomia, il gusto, si tratta appunto del Salone del Gusto e anche di Terra Madre. Si parla e si sottolinea molto con molta forza da alcuni anni l'importanza della biodiversità. Allora partiamo da qui con la nostra inviata a Torino, Laura Bettini. Buongiorno Laura. Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Beh, la biodiversità, perché è così importante? Poi tutti si domandano. Beh, secondo me basta un dato per capirlo, cioè che la FAO stima che i 3/4 dell'alimentazione mondiale dipendono da 12 specie vegetali e 5 animali, quindi una gamma molto ristretta. È evidente a tutti che questo è un rischio per la sicurezza alimentare, qui intesa sia come food security che come food safety, quindi insomma la salubrità e anche la disponibilità, la quantità del cibo e la completezza della nostra alimentazione. Ma a questo proposito, a proposito di completezza della nostra alimentazione, io vorrei, Enrico, presentarti a questo punto il nostro ospite, se tu sei d'accordo, che è lo chef Stefano Polato, che è responsabile per lo Space Food di Arbotech. Ha lavorato per mettere a punto alcuni alimenti buoni e nutrienti per Samantha Cristoforetti, ricorderete l'astronauta italiana che presto partirà per la stazione orbitante internazionale. Stefano, a questo proposito, completezza dell'alimentazione, su che cosa avete lavorato? Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, è un onore. E quindi per Samantha Cristoforetti, per darle un apporto indicato e necessario per tutte le attività che svolgerà durante i suoi mesi di permanenza sulla base spaziale internazionale, abbiamo sfruttato moltissimo le capacità antiossidanti di determinati ingredienti, perché dobbiamo ricordare che l'astronauta durante la sua permanenza in microgravità e con una certa dose di radiazioni che vengono, alle quali sono sottoposte, hanno un acceleratissimo invecchiamento cellulare, quindi gli antiossidanti ci servono proprio a questo. E in secondo luogo abbiamo sfruttato moltissimo le fibre derivanti da cereali integrali e legumi, in modo da distribuire l'energia che questi apportano per più tempo durante la giornata, tantissima frutta, ovviamente, come potete pensare, non fresca, ma comunque trattata, in modo che possa essere conservata per tutto il periodo della sua permanenza, e tantissima verdura. Quindi non pillole, insomma, come quelle che vediamo nei film, direi. No, dobbiamo scalzare quest'idea, nel senso che oggigiorno un astronauta ha la possibilità di accedere a quella che è effettivamente una a tutti gli effetti una dispensa personale, che però a differenza di quella che abbiamo a casa nostra non è conservabile in frigorifero o ad esempio in freezer, ma solo a scaffale, quindi devono essere tutti prodotti trattati, siano essi frutta, verdura, carne, pesce. Molta varietà anche nel suo caso, addirittura, Enrico, direi per concludere, addirittura dei presidi slow food, quindi non si tratterà male la Cristoforetti nello spazio. Eh sì, oltre a farsi forse probabilmente anche delle passeggiate molto interessanti, insomma, oltre alla fortuna di essere nello spazio, anche mangiare bene. Grazie Laura, buon lavoro. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori, a Torino il Salone del Gusto e Terra Madre, due appuntamenti molto importanti, sicuramente anche molto piacevoli, ma insomma sottolineiamo anche l'importanza dei temi che vengono trattati. Adesso torniamo e ci rituffiamo nei conti dell'Italia, sentiamo che cosa ha detto questa mattina Standard & Poor's. Standard & Poor's bacchetta l'Europa, ma soprattutto la politica, che si è affidata troppo agli interventi di Mario Draghi, sedendosi sugli allori e ritardando le riforme. La crisi non è ancora finita, l'Eurozona potrebbe entrare in una fase di crescita ostinatamente modesta, dice l'agenzia di rating, che avverte. Bene gli interventi della BCE, che ha aiutato a stabilizzare le economie nel breve termine, ma attenzione, nel lungo periodo possono essere controproducenti se portano i governi a una sorta di compiacenza politica. Secondo gli esperti, per stimolare domande e crescita, debito pubblico e privato devono tornare a livelli appropriati. Servono riforme fiscali, del lavoro, dell'istruzione, una riduzione della burocrazia e una spinta alla concorrenza. E la BCE può continuare in ogni caso ad espandere la propria politica accomodante. Riflettori puntati infine sulla bassa inflazione o deflazione, che in paesi come l'Italia potrebbe innescare una sorta di spirale. La propensione al risparmio più alta porterebbe al conseguente calo di consumi e investimenti e ad una pressione sui prezzi. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso parliamo ancora di soldi. Questa mattina l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcuni numeri che riguardano la casa degli italiani. Allora sentiamo come cambia, secondo appunto l'Agenzia delle Entrate, la casa degli italiani, ma soprattutto l'effetto della revisione del catasto, che incide anche su queste previsioni. Diminuiscono le case popolari e ultrapopolari del 5% e crescono non solo le abitazioni civili ma anche le signorili e i villini, entrambe l'1,4% in più. La fotografia delle abitazioni italiane, secondo il fisco, però è l'effetto di un riposizionamento, perché l'aumento della classificazione catastale degli immobili è dovuto in gran parte all'operazione di riclassamento avviata nelle grandi città, tra cui quella del comune di Roma, che ha riguardato in particolare le abitazioni dei centri storici, nati come popolari ma spesso diventati di pregio. I dati infatti riguardano i comuni capoluogo, le province italiane e registrano un aumento dell'1% dello stock immobiliare italiano rispetto al 2012, oltrepassando quota 66 milioni e 500 mila unità. Circa 170 mila case di residenza in più, per un totale di quasi 35 milioni, oltre 660 mila uffici. Diminuiscono però di circa l'1% le abitazioni di particolare pregio. La superficie media delle abitazioni censite è di circa 116 metri quadri e la rendita catastale del patrimonio immobiliare dell'Italia vale complessivamente quasi 37 miliardi di euro. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Percepivano l'assegno sociale che lo Stato versa agli over 65 in difficoltà economiche pur non essendo più residenti in Italia. La truffa all'INPS è stata scoperta dalla Guardia di Finanza. Sentiamo il capitano Italo Tommasino della Guardia di Finanza, appunto, al microfono di Adriana Fracchia. Una truffa nella quale sono stati indebitamente percepiti 4,5 milioni di euro e sono stati smascherati in Italia cittadini stranieri falsamente residenti nel nostro paese, percettori in modo indebito appunto della misura previdenziale dell'assegno sociale. Le situazioni di irregolarità rilevate in Italia sono state di 325, con 240 soggetti denunciati all'autorità giudiziaria. L'operazione è stata coordinata dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressioni Frodi Comunitarie del Corpo della Guardia di Finanza e ha visto in azione 75 comandi provinciali sparsi appunto su tutto il territorio nazionale. Ovviamente oltre ai 4,5 milioni di euro di danno che è stato arrecato, ha permesso però questa attività di bloccare e di avere un risparmio di circa 2 milioni di euro all'anno per quanto riguarda l'INPS. Ovviamente l'operazione è frutto della collaborazione esistente fra la Guardia di Finanza e l'INPS, che da qualche mese è stata rafforzata anche con la firma di un apposito protocollo d'intesa tra il Comando Generale del Corpo e appunto l'ente di previdenza. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Questi temi principali della giornata. L'Unione Europea chiede spiegazioni all'Italia sulla legge di stabilità, risposte entro domani. Passi avanti intanto per sbloccare il nodo regioni. Sullo sblocca Italia il governo ha posto la questione di fiducia. L'attacco al Parlamento canadese, oggi i deputati torneranno regolarmente al lavoro, l'uomo che ha agito era già sospettato di terrorismo. Ancora vento e piogge, soprattutto nel centro e sud Italia, a Catania è morta una donna travolta da una palma sradicata dal vento. Adesso i mercati finanziari. Borse in diretta. Allora, facciamo il punto dalla redazione di Radio Core. Eleonora Micheli, buongiorno Eleonora. Buongiorno. Allora, partiamo da un quadro generale. Oggi come vanno le borse? Positive o negative? Visto che è sono settimane che oramai vediamo un'altalena dei mercati finanziari. Esatto, altalena, questa è la parola giusta per descrivere l'andamento di questa mattina. La borsa italiana ad esempio è partita male, poi è arrivata a guadagnare circa lo 0,6%, adesso ha di nuovo imboccato la strada del ribasso, ma comunque ha cambiato insieme peraltro alle altre borse europee più volte direzione. In questo momento il FTSE MIB cede lo 0,4%, è praticamente registra la peggior performance in Europa, sono contrastate le altre piazze finanziarie. Allora, guardiamo i titoli principali, che cosa sui quali porre attenzione oggi? Sì, innanzitutto Luxottica, che segna un progresso di oltre il 2%, il mercato festeggia il fatto che sia stata indicata per l'azienda la guida, è stato infatti ieri sera disegnato dal Consiglio straordinario, l'amministratore delegato e il triunvirato comunque che guiderà la società, quindi i titoli recuperano dopo i recenti scossoni. Poi va bene, WDF segna un più 2,14%, d'altra parte va considerato che da inizio ottobre i titoli hanno accusato un tonfo del 31%, quindi il recupero alla fine è poca cosa. Le banche sono contrastate, ricordiamo che domenica saranno pubblicati i risultati degli stress test, quindi c'è molto nervosismo, oggi diciamo che i titoli vanno abbastanza male, MPS perde l'1%, la Popolare dell'Emilia Romagna all'1,58%, un po' meglio Intesa, meno 0,26%, Unicredit oscilla attorno alla parità. Un ultimo sguardo ai cambi, anche oggi diamo un'occhiata all'euro-dollaro. Sì, l'euro si è portato, mi è scambiato a 1,2660 dollari, vale oltre 136,21 yen, e infine il dollaro yen si attesta a 107,59. Bene, grazie ad Eleonora Micheli dalla redazione di Radio Cor il Sole 24 Ore. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sono le 13:37 minuti, questa edizione di Effetto Giorno è curata e condotta da Enrico Paglierini, grazie a Filippa Ureggi che si occupa della parte tecnica. Riprendiamo da una notizia di poco fa che riguarda l'eredità della sorella di Alberto Sordi, Aurelia Sordi. Allora, erede universale di tutto il patrimonio è la Fondazione Museo Alberto Sordi. Probabilmente ricorderete che ci sono state polemiche su questa eredità e quasi certamente il testamento sarà impugnato da una parte dei 37 parenti della famiglia Sordi esclusi dall'eredità, esclusi dalla possibilità tra l'altro di costituirsi parte civile nel procedimento della Procura di Roma che riguarda il presunto raggiro ai danni di Aurelia che coinvolge 10 persone e in particolare Arturo Artadi, storico autista di Alberto Sordi e poi factotum della sorella. Insomma, una vicenda piuttosto complicata. Oggi è stato aperto il testamento e l'erede universale di tutto il patrimonio di Aurelia Sordi è stata definita la fondazione. Vedremo gli sviluppi. Adesso parliamo della psicosi Ebola che è arrivata anche in una scuola d'infanzia di Fiumicino. Chanel, una bambina di 3 anni di ritorno da un viaggio in Uganda, si è vista sbarrare le porte dell'asilo da un gruppo di mamme terrorizzate dall'allarmismo creato nelle ultime settimane attorno al virus. Chanel era stata già sottoposta dalla famiglia a tutti i controlli previsti, tra l'altro l'Uganda non è uno dei paesi a rischio. Questa notizia ha attirato anche l'attenzione del ministro della salute Beatrice Lorenzin. Noi abbiamo parlato di questo con la professoressa Susanna Esposito che lavora all'ospedale Maggiore Policlinico di Milano ed è presidente della Società Italiana di Infettivologia Pediatrica. Sicuramente la paura eccessiva porta ad errori e comportamenti assolutamente ingiustificati. Indubbiamente l'epidemia di Ebola è un'epidemia consistente, ma non dimentichiamoci che gran parte dei casi segnalati riguardano persone, in particolare operatori sanitari, che sono stati a stretto contatto con i malati. Per cui se è vero che è importante uno screening attento da parte dei casi con sintomi, tra cui il rialzo termico, tra cui malessere generalizzato, tra cui manifestazioni cliniche come vomito e diarrea o addirittura manifestazioni più gravi, è anche vero che in assenza di sintomi non è assolutamente giustificato un comportamento che porti a isolare o addirittura a mandare fuori da un asilo un paziente che non ha alcuna ragione, un soggetto che non ha alcuna ragione di essere considerato un potenziale caso. Per cui non deve esserci un allarme giustificato, ma deve esserci un'adeguata cultura. Questo a mio avviso è il punto più importante. E proprio al riguardo penso che sia importante allargare anche i centri di riferimento e le strutture che possono seguire i casi di Ebola, perché in molti paesi, tra cui gli Stati Uniti, ma anche in molti paesi del centro Europa, attualmente vi sono più strutture di riferimento e i corsi con simulazioni dalla vestizione alla vestizione per la gestione dei malati sono già effettuati da tempo. Per cui credo che il nostro paese debba dimostrare di essere pronto a fronteggiare l'epidemia, debba essere pronto considerando che ci sono diverse realtà, un discorso è l'adulto che sicuramente è l'evenienza più frequente, un altro è comunque il bambino che richiede anche la disponibilità nelle strutture ospedaliere di terapie intensive pediatriche in grado di intervenire qualora il bambino presenti un'insufficienza d'organo, e un altro discorso naturalmente è la gravida, in cui è evidentemente necessario che nella struttura ospedaliera vi sia anche una terapia intensiva neonatale. Per cui penso di poter dire che l'emergenza Ebola si affronta con cultura, con sicuramente dei percorsi ben definiti, concordati tra le autorità sanitarie, ma che devono essere dei percorsi che coinvolgono comunque più operatori e tutti coloro che possono trovarsi di fronte a un caso sospetto. e quindi insomma allarmismo forse, anzi senza il forse, ingiustificato. A proposito di malattie infettive, da registrare il decesso di una persona a Bresso, vicino a Milano. La causa in questo caso è il virus della legionella, che ha colpito in totale 6 abitanti di questa zona a nord-est di Milano. Siamo in linea con il sindaco Ugo Vecchiarelli, che ha lanciato anche una sorta di appello ai cittadini. Buongiorno Vecchiarelli. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Allora, dobbiamo attendere naturalmente dei risultati, se non sbaglio, quindi non sappiamo ancora da dove arrivi questa legionella che ha provocato questo decesso di una persona anziana. Ecco, io prima cosa vorrei precisare che la persona anziana è deceduta, ma aveva, diciamo, delle patologie importanti, insufficienza renale, cardiopatia ischemica, insomma diabete, era un fumatore. C'era una persona che purtroppo era immunodepressa e il batterio l'ha aggredita. Sì, ha fatto bene a sottolineare. Certo. Ecco, io vorrei sottolineare questo aspetto perché è fondamentale. A questo punto, ma diciamo, in attesa comunque di risultati che dovranno arrivare dalle autorità sanitarie, devo precisare che è un batterio, non è un virus, è un batterio presente in natura, purtroppo, nell'acqua. Allora, io vi dico come ci siamo mossi noi. Io ho avuto informazioni di questa cosa venerdì scorso. Subito ho contattato la ASL per avere un'informativa e siamo usciti col primo comunicato stampa sabato 18 ottobre, dove sostanzialmente noi riportavamo quelle che erano le informative che avevamo acquisito sia dall'ufficio di igiene pubblica sia dal distretto ASL Milano, sotto cui ricade anche la nostra cittadina. E abbiamo fatto il primo comunicato, dove emergeva chiaramente che non vi era rischio, alcun tipo di rischio per l'utilizzo di acqua alimentare. Io questo voglio ribadirlo perché è importante utilizzare anche questo strumento, lo strumento radiofonico, per dire che l'acqua si può bere, l'acqua si può bere senza problemi, e tutte le attività connesse allo svolgimento di attività delle varie comunità, scuole, luoghi di lavoro, possono andare avanti senza nessun tipo di problema. E questo è importante. Io ringrazio il sindaco Ugo Vecchiarelli per essere stato con noi. Naturalmente siamo in attesa di altri risultati. A presto e buon lavoro. Ok, buon lavoro, grazie a voi. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. 13:46 minuti, l'attacco al Parlamento canadese oggi in primo piano all'interno di America 24. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Now we go first to Canada, where a man has opened fire at the war memorial in the center of the capital, Ottawa. Mercoledì 22 ottobre, una sparatoria in Canada, nel Parlamento canadese a Ottawa. Una sparatoria che ha improvvisamente riportato l'ombra del terrore in Occidente, soprattutto in Canada, dove non si erano ancora avuti incidenti di questo genere. Un soldato è stato ucciso da uno sparatore che poi abbiamo appreso non era solitario, ed è stato ferito davanti al War Memorial di Ottawa. Si chiamava Nathan Cirillo, era italo canadese. L'attentatore è stato ucciso, sappiamo come si chiama, Michael Zahav Bibo, un cittadino canadese nato nell'82, convertito, sembra, all'Islam, secondo fonti americane. Una situazione ancora fluida, devo dire, per cui non voglio darvi delle notizie certe al 100%, anche perché da fonti canadesi si tende a dire: ma no, non si tratta di una vicenda legata all'estremismo islamico. Ci sono ancora molti aspetti che non conosciamo. Il più destabilizzante, devo dire, è quello secondo cui ci sono altri attentatori che sono a piede libero. Cosa è successo? È successo che si è passati all'improvviso in una situazione di allarme totale. Sentiamo. The victim of the shooting is a member of the Canadian Armed Forces. His injuries were fatal. What I can tell you is that a male suspect is now deceased.